Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati alla nostra rubrica dedicata ai libri di economia. Oggi parliamo di manager e parliamo di manager in questa nuova fase dello scenario mondiale, così complesso, così complicato, che richiede una nuova managerialità, un nuovo approccio ai problemi. E allora abbiamo un libro che si chiama Dilemmi manageriali, edito dal Sole 24 Ore e scritto da Riccardo Varvelli. Buongiorno Varvelli. Buongiorno dottor Fabi. Insieme alla grande famiglia Varvelli, insieme a Maria Ludovica Lombardi Varvelli e Federica Varvelli, tutti operano nel campo dell'organizzazione d'impresa, della formazione manageriale e hanno raccolto in questo libro una serie di considerazioni, una quarantina di pillole per spiegare che come è cambiata in questo orizzonte più difficile, più complesso e anche più incerto la prospettiva del manager. E infatti gran parte di questo libro è fondato sui dilemmi e quindi sul dubbio. Si comincia subito con la prima pillola, con una frase di Bertrand Russell: il problema dell'umanità è che i folli e i fanatici sono estremamente sicuri di loro stessi, mentre le persone più sagge sono piene di dubbi. Quindi, dottor Varvelli, il primo requisito di un manager adesso è quello di avere dei dubbi. La speranza è che imparino ad averli, perché purtroppo noi veniamo da una cultura, che è quella scolastica, che tutti quanti abbiamo avuto da giovani, che era quella invece della certezza. Oggi l'unica certezza che possiamo dare al manager è l'incertezza, quindi un allenamento al quale però peraltro non è abituato, per cui bisogna partire a azzerare un po' molte delle certezze dalle quali siamo venuti e imparare a agire e interpretare nelle situazioni dilemmatiche e nelle situazioni dove il dubbio diventa la parte intelligente dell'operare del manager. Ecco, Bertolt Brecht è un'altra citazione: tra le cose sicure, la più sicura è il dubbio. Dobbiamo abituarci quindi a confrontarci con la possibilità che quello che noi pensiamo debba essere verificata con la realtà, deve essere passata al setaccio. Dobbiamo essere anche disposti a cambiare idea. Sì, infatti io mi sono divertito a inventare mutuando da Cartesio, ho scritto nel libro, invece di cogito ergo sum, ho scritto dubito ergo sum, quindi l'elemento caratterizzante oggi, ma di chi che sia, noi adesso parliamo di manager in realtà e di chi che sia chi vive in questa realtà, dove l'elemento caratterizzante è una sorta di turbolenza continua, quindi anche le regole passate non hanno più ragione d'essere, non è che fossero sbagliate, ma non hanno più ragione d'essere. Dobbiamo accettare di vivere in una situazione dove in alcuni casi si arriva anche a operare all'interno del caos, e quindi tutte le regole storiche, quelle classiche della dinamica, della statica, non hanno più ragione d'essere. Peraltro già nel passato avevamo gli elementi per dubitare delle certezze, però non l'abbiamo fatto. Ecco, Goethe è un'altra citazione: il dubbio cresce con la conoscenza, quindi dobbiamo anche affidarci al fatto che non è che conoscendo di più possiamo sciogliere i dubbi, anzi potremo trovare nuovi problemi, nuove prospettive e quindi altrettanti dubbi, però dobbiamo comunque continuare sulla strada della conoscenza. In questo senso forse questa era del dubbio, questa era del dilemma richiede un giusto equilibrio tra l'intuizione e la capacità di conoscenza, tra la razionalità e l'istintività. Devo dire che per fortuna la scienza ci aiuta, perché da quando ha incominciato a dimostrare nel nostro cervello l'esistenza di due parti, una parte che presidia più l'aspetto razionale e però quella intelligenza che viene definita più di carattere emozionale, e quindi l'emisfero sinistro e l'emisfero destro, che sono già ormai acclarati che funzionano e operano, dobbiamo cercare di esercitarci molto di più con l'emisfero destro, che è quello che favorisce la fantasia, che genera creatività. Vorrei fare per una precisazione che vivere nel dubbio, se poi non lo risolvi, non è da manager. Quindi il manager deve affrontare il dubbio, accettare il dubbio, ma purtroppo per il suo ruolo e anche perché le aziende e le organizzazioni lo richiedono, deve poi dopo risolvere il dubbio. Ecco, questo è il punto a cui volevo arrivare, perché dubitare è bello e anche facile, però a un certo punto bisogna anche decidere. Allora nel momento della decisione il dubbio deve diventare una realtà, deve diventare una concretezza, deve diventare una decisione, e anche se sono possibili diverse interpretazioni, poi bisogna puntare su una di queste e a questa affidare i propri principi e la propria strategia. Assolutamente sì. Per aiutare il manager a uscire dal dubbio, noi proponiamo una specie di metodo, un processo, che è quello di stabilire quali sono gli elementi estremi di una situazione e all'interno poi di questi estremi fissare dove in quel momento la realtà particolare richiede una risposta. Però non c'è dubbio che la decisione è unica, non ci possono essere più decisioni. Il manager saggio è quello che comunque decide la prima soluzione, però ha in riserva nel cassetto la seconda e la terza. Quindi, qualora si dimostrasse che nell'applicazione della prima decisione non ci siano le condizioni per arrivare al risultato, non rimane in attesa di altre richieste, ma risolve il problema attingendo dalla seconda, dalla terza e eventualmente dalla quarta soluzione. Quindi, sciogliendo in pratica quello che lei nel libro chiama dilemmi, per esempio c'è un dilemma: è meglio un capo autoritario o un capo partecipativo? Forse non c'è una soluzione, un capo deve essere, quando è necessario, autoritario, quando è necessario, partecipativo. Beh, questo non c'è dubbio. Io faccio sempre l'esempio della nave che affonda. In una nave che sta affondando, non c'è dubbio che il capo in quel momento lì deve ritornare ad essere molto autoritario, non può pensare di perdere tempo a chiedere il parere dei suoi diretti collaboratori. Quindi ci sono delle realtà e stiamo andando verso una situazione dove il ritorno all'autoritarismo, con tutti i limiti e con tutte le preoccupazioni che questo può portare, diventa necessario se vogliamo uscire da situazioni caotiche o da situazioni di massima incertezza. Quindi questo dilemma, che sembrava 10 anni fa ancora, no? Spostare il cursore verso una unica soluzione, che era quella del capo partecipativo, noi lo rimettiamo in dubbio. Noi diciamo che ci sono delle situazioni oggi, e più oggi che non nel passato, dove il ritorno ad una gestione autoritaria e, attento, fra virgolette, quindi con tutti i rischi e i pericoli di questo, diventano necessari se vogliamo uscire dal caos. Ecco, in questo senso non metto in dubbio che questo libro apra degli ulteriori dubbi sulle cose da fare, però ha anche delle istruzioni pratiche, delle istruzioni appunto per muoversi, per uscire appunto dal caos, come diceva il dottor Varvelli. Un altro dilemma è, per esempio, si può imparare lo stile Marchionne o può realizzarlo solo Marchionne? Questo mi diverte, perché un anno fa, quando abbiamo incominciato a guardare dal buco della serratura i comportamenti di Marchionne, perché a quell'epoca non lo conosciamo ancora bene e quindi non sappiamo neanche esattamente dove parava, noi abbiamo avuto il coraggio di scrivere, e devo dire che peraltro una rivista che è del gruppo 24 ore, l'Impresa, ha pubblicato allora un articolo che era intitolato Leadership o Marchionship. Io credo che, avendo un esempio, si può imitare, quindi al di là adesso della dimensione nella quale opera Marchionne, ma dà degli spunti sia allo studioso come noi, ma anche all'operatore, che certe modalità, per esempio, diciamo la più rapida, Marchionne, come abbiamo visto negli ultimi affari relativamente alla Chrysler piuttosto che non all'opera, lavora in prima persona, non delega a nessuno, quindi questo già è un altro elemento interessante che in qualche modo riduce quello che era stato tutta la letteratura nel passato, che privilegiava la delega, che era orientata più al capo, appunto di tipo partecipativo. Marchionne, la prima cosa che fa quando dice ai suoi nuovi dirigenti della Chrysler: chi non è d'accordo con me lo dica e se ne vada fuori dai piedi. Che è di una brutalità sconcertante, ma devo dire, se vuol salvare la Chrysler, come è riuscito in maniera quasi incredibile a salvare la Fiat, forse questo è il modo giusto, ecco qua perché noi diciamo che questa è una Marchionship, cioè un modo per gestire il rapporto organizzativo e di management in maniera abbastanza innovativa. Poi c'è anche una dimensione di poter saper osare, di poter pensare alla grande, di avere quella dimensione in fondo del sogno che dovrebbe fare parte dello stile di ogni manager. Ancora una volta Marchionne in questo è esemplare, perché ha molte affermazioni che ha fatto, per adesso noi non sappiamo ancora dove andranno a parare, però lui ha il coraggio di dirle, di affermarle, in qualche modo di cercare di realizzarle, e poi l'aspetto più bello è che sta trascinando persone, quelle che sono d'accordo con lui, in questo sogno. Quindi certo, non c'è dubbio che un manager senza sogni è un burocrate, anzi i burocrati sono appunto i manager senza sogni, per cui un minimo di fantasia, ecco perché noi diciamo che dobbiamo ricorrere più di quanto abbiamo fatto fino adesso all'emisfero destro, e cioè quello della fantasia, della creatività e, perché no, anche della emotività. Certo, l'emotività è una parte importante, l'emotività soprattutto in una fase come questa, dove la razionalità potrebbe spingere ad avere dei pensieri negativi sulle prospettive dell'economia, sulle prospettive della società, e forse bisogna muovere appunto l'emotività verso l'ottimismo della volontà, è ancora possibile? Certo, non c'è dubbio, ma noi usciamo purtroppo non usciamo ancora, ma siamo in una situazione critica perché gli economisti e, se vogliamo parlare delle aziende, gli ingegneri che vengono dalla cultura di tipo deterministico, no, hanno portato avanti un discorso di cui adesso paghiamo le conseguenze. Quindi la crisi nella quale ci troviamo oggi, che ha tutta una sua storia e che purtroppo è diventata adesso ormai una crisi industriale, non soltanto economica, non soltanto immobiliare, è dovuta al fatto che determinate convinzioni che avevamo di tipo deterministico, abbiamo governato gli investimenti persino sulla base di algoritmi matematici che si sono dimostrati poi effimeri. Quindi il discorso di avere il coraggio anche di azzerare quello che è stato nel passato, una ricerca di esattezza che oggi è improponibile. Oggi noi dobbiamo lavorare soprattutto con l'approssimazione e con l'umiltà di proporre strade e con l'umiltà di dichiarare e riconoscere che magari qualcuna di queste strade è sbagliata e quindi ripartire da zero. Potremmo dire, per concludere, meno con modelli astratti e più con umanità. Meno con modelli teorici, meno con modelli matematici. Noti che sta parlando uno che ha ancora tuttora fiducia nella matematica e che parte della sua vita l'ha fatta cercando di creare dei modelli, degli algoritmi matematici. Però meno fiducia, meno delega al modello matematico. Il modello matematico può rimanere, quindi il modello teorico, può rimanere in piedi come un supporto, non come l'unico risolutore delle problematiche. A quello aggiungere quella parte di libertà che l'uomo ha, quella parte di coraggio e, perché no, quella parte di emotività che tutti noi abbiamo sicuramente. Grazie a Riccardo Varvelli, ingegnere esperto di organizzazione di impresa, di consulenza manageriale, che ha scritto insieme a Maria Ludovica e Federica Varvelli il libro Dilemmi manageriali, edito dal Sole 24 Ore, costa 21 euro, è una raccolta di dubbi ma anche di certezze, perché dal dilemma alla decisione, affrontare i dubbi, risolvere i dilemmi e fare strategia, scrive nella controcopertina di questo libro, che appunto vuole essere un manuale per recuperare la capacità del manager a decidere in una società certamente complessa. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori, alla nostra rubrica dedicata ai libri di economia. Abbiamo parlato nella prima parte con Riccardo Varvelli del libro Dilemmi manageriali, un libro scritto da Riccardo Varvelli insieme a Maria Ludovica e Federica Varvelli, una famiglia, come abbiamo visto, dedica all'esame dei problemi della managerialità e dei manager oggi. Parliamo ancora di manager in questa seconda parte, ma parliamo più in generale anche di lavoro a medi ed alti livelli, parlando del libro Come farsi cacciare dai cacciatori di teste. Ne sono autori Vito Gioia, buongiorno Vito Gioia. Buongiorno a tutti. E Attilio De Pascalis. Buongiorno. Vito Gioia è un economista ed è un cacciatore di teste, praticante direi. Attilio De Pascalis è un giornalista ed è specializzato nella comunicazione. Allora Vito Gioia, come nasce l'idea di questo libro? L'idea di questo libro nasce dopo tanti anni di esperienza come cacciatore di teste, perché mi sono reso conto che i candidati puntualmente fanno tutte le stesse domande. E allora, anche per risparmiare tempo, ho pensato: se do tutte le risposte in questo libro, probabilmente risparmiamo tempo ambo le parti. Ecco, quindi è un libro dedicato più a chi cerca lavoro e quindi come farsi cacciare, come presentarsi bene a una offerta di lavoro. Sì, è un libro tendenzialmente dedicato ai candidati, quindi manager o quadri che, anche se stanno lavorando, hanno la voglia di cercare un altro lavoro, ma è anche dedicato alle aziende quando cercano dei manager, perché spiega il funzionamento della caccia diretta. Ecco, in questa fase parliamo purtroppo di difficoltà economiche, quindi di necessità da parte delle aziende di ristrutturarsi, che spesso vuol dire dover rinunciare a delle risorse umane proprio interno, e per queste risorse di cercare nuovi posti. In questa fase è ancora più importante essere competitivi, Vito Gioia. Sì, in questa fase è sicuramente più importante, perché c'è una grandissima abbondanza di candidature per pochissime posizioni da ricoprire. Quindi per un solo posto ci sono molti candidati e i candidati sono anche molto più disponibili del passato, quindi la concorrenza è aumentata dal punto di vista del candidato. Ecco, è aumentata la concorrenza, ma la qualità resta elevata. La qualità sicuramente resta elevata, però teniamo presente che quando un'azienda cerca un candidato per una posizione specifica, le esigenze sono molto molto specifiche, quindi la probabilità di rientrare nella griglia di requisiti definiti dall'azienda è piuttosto limitata, non riguarda la moltitudine di candidati. Ecco, però bisogna farsi conoscere. Qui parliamo di Attilio De Pascalis, comunicatore, giornalista. Perché è importante che una persona svolga anche un'attività di comunicazione per se stesso? Come dice il titolo del libro, come farsi cacciare dai cacciatori di teste, il suggerimento è quello di pensare prima, molto tempo prima, ai possibili sviluppi di carriera e quindi dedicare sostanzialmente un po' di tempo, diciamo idealmente qualche decina di minuti ogni giorno, a guardare avanti, a prendere dei contatti, a farsi conoscere, a far ben vedere le cose che si fanno, comparire ogni tanto in modo non esagerato sui giornali attraverso interviste, citazioni, farsi una buona immagine, una buona reputazione è una cosa che sicuramente aiuta la carriera e rende più appetibili per i cacciatori di teste se mai arrivasse un'opportunità. Ecco, in un certo senso fare il proprio lavoro pensando al lavoro successivo? Esattamente, però non è così semplice, non è così scontato. Noi diciamo così in modo un po' ironico nel libro che molti manager si rendono invisibili, cioè pensano di essere così bravi che automaticamente qualcuno un giorno verrà a cercarli, eccetera, eccetera. Noi invece consigliamo un approccio proattivo. Numero uno, fai bene il tuo lavoro, fai bene il tuo business, cerca sempre di crearti una buona reputazione all'interno e all'esterno, con i tuoi superiori, con i tuoi colleghi, con i tuoi collaboratori, con i colleghi di altre aziende. Fai insomma di te un piccolo prodotto ed applica le regole del marketing, fatti conoscere, fatti vedere un pochino in giro, ma base sempre numero uno, ripetiamo, fai bene il tuo lavoro. Ecco, in questo senso, Vito Gioia, in Italia forse la figura del cacciatore di teste è ancora una figura marginale nel mercato del lavoro, una figura solo per certe qualifiche molto elevate. Si sta estendendo questa società di consulenza e di valutazione del personale da parte delle aziende, società appunto esterne, oppure nella società italiana c'è ancora una prevalenza di contatti diretti, di conoscenza diretta da parte dell'imprenditore verso il possibile manager e così via? Come diciamo nel libro, ci sono due tipologie di società di consulenza. Le società cosiddette di executive search, che trattano soltanto posizioni di amministratori delegati, direttori generali e direttori di funzione, e le cosiddette società di selezione, che trattano il middle management, ovvero i quadri. Questa è la popolazione di cui si occupano i consulenti. Però teniamo presente che la gran parte dei movimenti che si osservano nel mercato del lavoro, almeno per il 60-70%, non avviene attraverso i consulenti, ma viene gestita direttamente dalle aziende o con ricerche dell'azienda o tramite contatti, presentazioni, segnalazioni, cordate e così via. Quindi dal punto di vista del candidato raccomandiamo di prestare molta attenzione a questo 70% dei movimenti e di andare molto mirati nel restante 30% quando si ritiene di avere dei requisiti molto molto precisi. Ecco, in un certo senso la raccomandazione si usa ancora? La raccomandazione dal nostro punto di vista ovviamente non vale, perché se un'azienda incarica un cacciatore di teste, considerato che il servizio è anche abbastanza costoso, non lo fa per farsi presentare dei raccomandati. Quindi probabilmente esiste ancora, ma non riguarda quei passaggi attraverso cacciatore di teste. Sono i passaggi, diciamo, diretti o le segnalazioni, e avvengono soprattutto in alcuni ambienti probabilmente un po' più politici, pubblici, dove la raccomandazione vale qualcosa. Quindi la politica di relazioni vale ancora qualcosa. Ma ecco, questo libro cambia un po' anche la prospettiva, perché dice come farsi cacciare dai cacciatori di teste. Quindi non sono solo i cacciatori di teste che prendono in esame la realtà e guardano quali che sono le qualifiche più alte all'interno delle aziende dove già le persone lavorano, ma è possibile anche che una persona possa proporsi ai cacciatori di teste per impieghi eventuali che non sa che ci siano e che quindi non è in grado di identificare. Quindi può esserci anche un movimento, diciamo, dal basso verso l'alto che poi ritorna verso l'azienda? È possibile mandare dei curriculum, farsi conoscere, farsi apprezzare a queste società di headhunting? Sì, ovviamente l'obiettivo del cacciatore di teste è di trovare il candidato giusto per quell'esigenza specifica. L'attività principale che svolge il cacciatore di teste è la cosiddetta ricerca diretta, e quindi è una ricerca attiva da parte del consulente verso aziende target. Ovviamente questo non vuol dire escludere candidati che si propongano spontaneamente, quindi come cacciatori di teste, soprattutto in questo periodo, siamo sommersi da migliaia di curriculum, e magari tra queste migliaia di curriculum ci potrebbe anche essere il candidato giusto per una selezione. Quindi è una delle tante fonti, come una delle fonti può essere presente nei social network piuttosto che in altri canali dove il cacciatore di teste va a reperire dei possibili candidati. Quindi tutte le fonti sono possibili, possono essere utili. Ecco, ma in questo senso il tradizionale curriculum vale ancora? Vito Gioia. Il curriculum dal punto di vista del consulente è lo strumento fondamentale per poter prendere in considerazione candidatura. Senza curriculum per noi il candidato non esiste. Sulla base del curriculum possiamo immaginare se può essere adatto o meno a certe posizioni, e sulla base del curriculum si può andare avanti nei colloqui, nella selezione. Ecco, Attilio De Pascali, il classico curriculum, quello un paio di cartelle scritte con data di nascita, qualifiche, età e così via, e magari anche referenze, è quello che tutti conosciamo. Ma ci sono delle nuove formule, ci sono i video curriculum, ci sono delle formule appunto che passano attraverso i social network, ci sono nuove sperimentazioni sotto questo profilo? Direi decisamente di sì, c'è un'evoluzione del tradizionale curriculum e soprattutto un modo di presentarlo nuovo. Ciò che interessa ai cacciatori di teste e in definitiva alle aziende che cercano le persone è di capire non solo cosa sai fare, ma chi sei, quali sono i tuoi valori, le tue esperienze, anche i tuoi interessi, i tuoi hobby, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, migliorare un pochino il curriculum può avvenire innanzitutto mettendo una foto a colori, curando i testi in modo che siano brevi, non indicare semplicemente i ruoli ricoperti ma anche i risultati raggiunti, che sono molto importanti, essere comunque sintetici e indicare molte anche delle attività collaterali, far parte di associazioni, di club. Quindi dare un esempio completo della propria personalità. Un'ultima domanda a Vito Gioia, si parla dei requisiti per fare carriera, trovare nuovi posti: onestà e correttezza, senso di responsabilità, coraggio e fortuna. Quanto pesa la fortuna in percentuale? La fortuna può pesare moltissimo, però a mio avviso la fortuna aspetta a tutti noi. Va aiutata. Bisogna saperla cogliere, esattamente. Un'ultima... Come diciamo nell'introduzione, la fortuna favorisce la mente preparata. Grazie. Ringraziamo Vito Gioia e Attilio De Pascali che sono stati con noi per parlare del loro libro Come farsi cacciare dai cacciatori di teste, carriera sostenibile e buona reputazione per finire nel mirino degli headhunter. È edito dal Sole 24 Ore, costa 21 euro, è un libro di consigli pratici di 150 pagine. Grazie, alla prossima puntata.